la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori della 24, 16:35 primi 45 secondi, quindi diretta dalla 24 studi di Milano. Vado subito al tema di oggi, che è un tema che ha a che fare con i doveri dell'informazione. Lo abbiamo fatto quando è stata la volta del sisma, ricorderete anni fa, a cavallo tra l'Emilia e la bassa della Lombardia. Lo facciamo tutte le volte in cui gli eventi della natura mettono in ginocchio parti del territorio e naturalmente filiere intere di impresa, come se ce ne fosse bisogno dopo i dati devastanti di questi anni di crisi. E oggi dedichiamo la puntata a capire meglio, a distanza di qualche giorno dall'enorme precipitazione delle esondazioni dei fiumi che hanno di nuovo colpito una parte dell'Emilia, in particolare i bacini dei fiumi Reno, Secchia, Panaro, Trebbia, Taro, e quindi siamo a cavallo tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, come stanno le cose a distanza di qualche giorno. Tenete conto che ancora nelle aree interessate fino a oggi c'erano gli allarmi della protezione civile. Naturalmente di fronte a queste vicende i telegiornali, l'informazione nelle ore immediatamente successive ci bombardano quasi di immagini e di informazioni, poi purtroppo si tende a farsi prendere da altre cose, ma il nostro dovere è quello di chiedere innanzitutto a chi sta in queste aree di chiamarci all'800240024 per segnalarci la propria impressione, la propria esperienza, chiedere che cosa sta si può fare di più se non è bastato quello che si è fatto. Di solito non basta mai, e quindi oggi abbiamo apposta chiesto, e la ringrazio per questo, alla presidente della Confederazione Agricoltori di Modena, che sta proprio a poche decine di metri dal fiume che è esondato, cioè Eugenia Bergamaschi, di essere con noi per darci la voce diretta di quello che sta succedendo. Grazie e buon pomeriggio Bergamaschi. Grazie a lei, buon pomeriggio. Volevo precisare, sono il presidente di Confagricoltura Modena. Sì, Confagricoltura, allora, ha ragione. Sì, e sono un agricoltore che abita ai piedi del fiume Secchia, esattamente a 200 metri di dove si è rotto l'argine domenica mattina presto. È una disperazione nel senso che sono usciti da questa breccia che è risultata essere grande circa 50 metri, sono usciti circa 20 milioni di metri cubi di acqua, i quali si sono dispersi nelle campagne modenesi e sono andati verso la bassa, cioè verso quei comuni che sono stati quasi due anni fa colpiti dal terremoto. Quindi parliamo di comuni come Bastiglia, Buonporto, Sorbara, San Felice, Medolla e lo stesso comune di Modena dove abito io. Diciamo che dopo i danni del terremoto adesso abbiamo anche i danni dell'alluvione. È veramente una situazione insostenibile, è una situazione pesantissima. Non so come questa volta potremo rimetterci in piedi. Finalmente, con un miracolo, sono riusciti a chiudere la falla che si è provocata nell'argine del fiume, ma siamo comunque in uno stato di emergenza e i danni sono veramente molto ingenti. In agricoltura sono danni dovuti ai fabbricati, danni dovuti alle abitazioni degli imprenditori agricoli, alle strutture, a tutto il materiale che è stato danneggiato dall'acqua, come il fieno, i mangimi, i concimi e poi tutte le colture in campagna. Ricordiamo che la zona di Sorbara Buonporto è la zona del distretto del Lambrusco, cantine sott'acqua, frigo della frutta senza corrente elettrica, culture come la vite e le piante delle pere sott'acqua, quindi i danni sono veramente molto ingenti e li calcoleremo solamente nelle prossime settimane, prossimi mesi. Ora, gli interventi immediati, quelli della Protezione Civile e il coordinamento della Regione, nel suo giudizio, per quello che ha visto e per quello che è avvenuto, come sono da giudicare? Beh, io direi che dopo la tragedia sono stati efficientissimi. Io devo ringraziare il presidente Errani perché in prima persona ha preso in mano la situazione per porre il rimedio, la chiusura dell'argine, e ripeto, è stato un miracolo. Io abito a 200 metri, hanno lavorato in maniera incessante da domenica e stanno lavorando tuttora perché è una situazione d'emergenza. Il problema è quello che non è stato fatto prima, non quello che è stato fatto dopo, è quello che non è stato fatto prima. Ecco, veramente... aspetti, questo è meglio soffermarsi, perché ovviamente ci sono i danni del poi, però è il prima, come sta dicendo, che molto spesso è all'origine di questi dissesti in caso di precipitazione nel nostro caso. Di preciso, in questo caso, qual è stato il problema? Manutenzione dell'argine? Sì, non è stato gli enti preposti alla vigilanza e alla manutenzione di questo fiume. Negli anni hanno fatto delle manutenzioni abbastanza superficiali, per cui l'argine è un'area margine che è stato alzato e allargato negli anni 70, dopodiché è stata fatta una manutenzione ordinaria, insufficiente per evitare questa tragedia. Noi abitanti del luogo, noi imprenditori agricoli, le organizzazioni agricole e anche tutti i sindaci delle aree della Bassa più volte hanno sollevato il problema all'ente preposto della mancanza di una vigilanza e di una manutenzione di questo fiume. Era una tragedia annunciata. Che a carico in questo caso all'ente di bacino, che cosa è, qual è l'autorità? Allora, l'ente deputato, diciamo, alla vigilanza e alla manutenzione di questo fiume è l'AIPO. Sì. Siamo alle solite in Italia, chi deve probabilmente non fa abbastanza. Poi c'è da dire che è vero che sono cambiate le condizioni climatiche, è vero che l'acqua che viene giù dalla montagna viene giù molto velocemente perché c'è il dissesto in montagna, è anche vero che è cambiato il clima, adesso di solito in montagna c'è la neve, adesso piove. Allora, siccome è cambiato il clima, è inutile che continuiamo a ragionare in maniera vecchia. Se è cambiato il clima dobbiamo adeguarci, quindi dobbiamo essere più efficienti. La manutenzione dei fiumi è un dovere morale e civile per gli abitanti. Non si può più andare avanti in questo modo. Costava molto meno fare la manutenzione del fiume, pulire il fiume, togliere tutte quelle schifezze, mi scusi il termine, che vengono giù ogni volta con le piene. Costava molto meno fare questo che il disastro che è successo adesso. Adesso è un disastro. Se è un disastro dal punto di vista economico, è un disastro dal punto di vista umano ed è un disastro anche dal punto di vista ambientalistico, perché c'è l'ambiente distrutto. Ci sono anche, c'è un problema di sfollati anche per abitazioni? Certo, molto alto, perché il paese di Bastiglia l'acqua è arrivata in casa 2 metri, quindi tutto l'abitato di Bastiglia e di Bonporto sono stati sfollati. Pensi che io sono 200 metri prima della rottura del fiume, 200 metri dopo la rottura del fiume c'è un pensionato per anziani, persone disabili che le hanno dovute portare via domenica mattina d'urgenza in braccio, in barella, cioè situazioni veramente, veramente allucinanti. Quindi bisogna smetterla di sempre arrivare alla catastrofe. In questo caso, se ci fosse stata la volontà e anche le risorse economiche per fare una giusta manutenzione, noi non ci troveremmo in queste condizioni. La cosa è successa in un punto che sta a 6 km dalla Ghirlandina, che è il centro di Modena, quindi non siamo molto lontani dal cuore della città di Modena. Senta, voi adesso avete già avuto comunicazioni ufficiali in merito alla sospensione innanzitutto per esempio delle scadenze fiscali? No. Quanto? No, non ancora. No. Il governo su Guardi, questo? No, ho fatto delle verifiche prima che lei mi chiamasse, pare che il governo volesse, cioè è stata richiesta, si parlava di almeno 6 mesi, però ad oggi non si sa niente, domani c'è la scadenza della mini IMU. Perché il presidente Errani ci ha fatto sapere che lui ufficialmente ha inoltrato la richiesta. Certo, mi risulta. Sì, è così. Sì, l'ha chiesto, mi risulta, però dal governo non abbiamo ancora avuto risposte. Al governo noi anche già durante il terremoto abbiamo sempre fatto tante domande e abbiamo avuto poche risposte. Io penso che a questi livelli ormai con l'alluvione occorre che il governo ci dia delle risposte forti, occorre che il governo ci dia veramente una mano forte in questo momento. Ci stavamo riprendendo dal terremoto a fatica, adesso abbiamo una alluvione. Hanno il dovere di aiutarci, soprattutto dal punto di vista fiscale. Senta, qualche nostro ascoltatore, perché intanto arrivano gli sms al 349-238-6666, dice, chieda un po' alla Presidente di Confagricoltura, da questo punto di vista le imprese agricole, voi siete in un'area anche di agricoltura molto intensiva, insomma come tutta l'Emilia e così via, dal punto di vista dell'equilibrio idrogeologico eccetera eccetera, hanno per parte loro, per quello che fanno come imprese eccetera eccetera, la coscienza del tutto a posto su quello che poi capita al regime delle acque oppure no? Io l'ho postissimo perché sono 60 anni che abito lì, cioè non io personalmente, ma 60 anni che la mia famiglia ha l'azienda ai piedi del fiume Secchia. Mio nonno, mio padre e la sottoscritta. Io mi sento a posto con la coscienza. Bisogna rispondere a questi telespettatori e a questi ascoltatori che gli agricoltori sono i custodi del territorio. Gli agricoltori fanno i fossi, gli agricoltori puliscono i fossi, gli agricoltori arano la terra, fanno delle manutenzioni che altri non fanno. a noi, io che abito vicino al fiume, se io volessi andare a pulire il fiume, cioè la parte interna, il letto del fiume, mi è impedito per legge, perché la parte interna del fiume, il letto del fiume Secchia, è di proprietà del demanio. Se io agricoltore, visto che dentro al fiume c'è di tutto, piante, sterpi, rovi, tronchi di alberi che vengono giù con le piene, vado e li porto via, li pulisco, vengo multata, perché la legge mi impedisce di fare manutenzione, perché è demanio dello Stato. Ecco, questo io sono molto felice che ce lo abbia sottolineato, perché io credo che in un paese che le risorse non ce l'ha e quella che ha le utilizza malissimo, invece la sussidiarietà dal basso dovrebbe essere incentivata, instancabilmente cercata, ma non solo per la manutenzione, per evitare il dissesto idrogeologico. Io sto parlando dei servizi di prossimità, gli anziani, la teleassistenza e così via. Invece il criterio è che dello Stato non si può fare, anzi non lo devi fare, tranne che poi ovviamente quando succede il disastro, eccoci qua. Torniamo tra un minuto, adesso l'informazione stradale, torniamo tra un minuto a occuparci dell'Emilia di nuovo in ginocchio per via delle esondazioni. La versione di Oscar. Eccoci, tornate in diretta, 16:47 premi 20 secondi, molti sms, uno per tanti, anche dall'area interessata, Raul, che ci chiama da Creu al Core, dicendo, beh sì, non c'è ancora risposta per i 6 mesi di protrazione del pagamento fiscale chiesti da Errani, però intanto poi l'esperienza è che chi è stato colpito dal sisma aspetta ancora i soldi, quindi figuriamoci. Altri come Massimo da Varese, dice, a Varese noi siamo riusciti, abbiamo fatto le vasche di laminazione sul fiume Alona e così si evitano le tragedie. È ovvio che poi altrimenti vengono i disastri fanno notizia. Il problema non è che i disastri fanno notizia, il problema è che noi non riusciamo a reggere neanche a tenerle come notizie i disastri, perché a distanza di pochi giorni tutti si voltano dall'altra parte, caro Massimo, e questo secondo me è molto sbagliato, perché io capisco le paginate intere sulla legge elettorale, Renzi, Letta e Berlusconi, però insomma pezzi interi di paese che ogni volta arretrano ancora di più, vengono colpiti e poi dimenticati, mi pare un grave errore, non lo dico per la mia piccola corporazione, grande corporazione, che è quella dei giornalisti. Altri si chiedono perché non si impiega l'esercito sia per fare i lavori sugli argini che per gli abitanti. Tenete conto che l'amministrazione della difesa è diversa anche questa, è come ricadiamo nello stesso caso di prima di cui ci parlava Eugenia Bergamaschi. L'esercito non si occupa della manutenzione del demanio. Lo Stato è compartimentato, capite? Non è una questione flessibile che in strettezza di risorse utilizza al meglio quelle che ha. Ognuna resta con il suo compito e poi succede quello che succede. Sentiamo qualche telefonata ancora. C'è Giorgio che ci chiama da Modena. Prego Giorgio. Grande Oscar, buon pomeriggio. La cosa è molto semplice. I fiumi hanno delle casse d'espansione che servono apposta per evitare questi problemi. D'estate vanno vuotate in maniera tale che in questi periodi dell'anno si possano riempire facendo esondare i fiumi. Chiediamoci se vengono utilizzati in questa maniera. Io ho dei gravi dubbi, e non solo ho dei dubbi, avendo la terra molto vicina a dove è stato esondato il fiume, grazie a Dio dall'altra parte dell'argine, però normalmente i problemi li ho a casa mia, quindi questa è la mia riflessione. Diciamo che per questa volta è andata bene, ma potrebbe essere, speriamo di no, ma la prossima. Quindi lì c'è un problema delle opere ordinarie anche che non vengono fatte. Esatto. E del resto questo ci diceva il presidente Bergamaschi. Sentiamo Marco che ci chiama invece da Parma. Prego Marco. Sì, buonasera, buonasera Oscar, mi unisco al grande Oscar pronunciato dal ascoltatore che mi ha piccolo preceduto. Piccolo, non si preoccupi. No, abbiamo bisogno di gente come lei, nonostante tutto. Andiamo al punto, anche andiamo a livello al punto. Politico. Andiamo al punto, no, io faccio il andiamo mio mestiere. Andiamo al punto, subito. Io vorrei sapere qual è il rapporto, ed è una domanda che non ha una risposta immediata, ma la prego di darmela magari quando ce l'avrà. Qual è il rapporto fra le entrate dei vari consorzi di bonifica, AIPO e quant'altri, e le uscite per pagare gli stipendi dei dipendenti di AIPO, consorzi di bonifica e quant'altri, e gli importi delle opere realizzate. Temo, purtroppo, lei me lo confermerà, che per gli stipendi si spendono molti più soldi di quanti se ne spendano per le opere che vengono realizzate. Marco, io infatti fa bene a chiedermelo, perché non direi mai una cosa senza per la prima appurata. Mi è capitato un annetto fa, e facemmo delle trasmissioni un annetto e mezzo fa, alle 9 del mattino a Radio 24, ci occupammo dei consorzi di bonifica in Basilicata e particolarmente in Calabria, e scoprimmo che le entrate non riuscivano neanche a coprire i costi fissi di gestione. Quindi, però stiamo parlando di quelle altre zone, di questo dovremo approfondire, mi impegno a dare una risposta, sempre che Eugenia Bergamaschi non ci possa immediatamente aiutare. Sì, una risposta gliela posso dare se vuole. Certo. Allora, non confondiamo l'AIPO con i consorzi di bonifica. L'AIPO è un ente interregionale, i consorzi di bonifica sono un ente locale e che viene pagato con la contribuzione, esatto, dei cittadini. Devo dire che in questo caso l'AIPO è stata assente nella manutenzione del fiume Secchia. Tutta l'acqua che non è esondata, cioè uscita sopra l'argine, ha sfondato l'argine per cattiva manutenzione. Di conseguenza quest'acqua si è riversata sul territorio e grazie al consorzio della bonifica di Burana, che sta lavorando incessantemente tutti gli uomini, e abbiamo avuto una riunione anche ieri sera, la stanno raccogliendo nei canali, va bene, per riuscirla a togliere dal territorio e da confluire verso l'altro fiume, il Panaro, di competenza sempre dell'AIPO, per mandarla al Po. Io devo solo ringraziare il consorzio di bonifica col lavoro che sta facendo, perché il problema dell'AIPO è stato scaricato su consorzio di bonifica che ci sta aiutando a prosciugare i terreni. Comunque vedremo nei prossimi giorni di riuscire a invitare anche qualcuno per conto dell'AIPO per rispondere. Naturalmente, siccome stiamo parlando del Po, capite che le competenze sono obbligatoriamente interregionali, per capire la loro versione dei fatti in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, visto che qui stiamo parlando di uno sfondamento di un argine. Dovesse dare con un ordine di approssimazione obbligatorio, presidente Bergamaschi, una prima stima, noi stiamo parlando di danni per le imprese agricole e non solo agricole, stiamo parlando di un ordine di milioni, centinaia di milioni, più di centinaia di milioni? Ma guardi, allora, i danni sono molto forti per l'agricoltura, però ci sono villaggi industriali e artigianali sott'acqua, ci sono negozi di commercianti sott'acqua, ci sono abitazioni di privati sott'acqua, ma il problema molto anche grosso è la viabilità. Non abbiamo la statale Canaletto lì davanti, fianco al fiume Secchia, che è l'arteria principale che porta il traffico da Modena verso Mirandola, quindi tutta la bassa, è fuori uso questa statale. Abbiamo, e non è solo questa statale, abbiamo anche altre statali, quindi appena ci saranno le condizioni dobbiamo rimettere in piedi tutta la viabilità di una parte della provincia, tutto il sistema di canali di una parte della provincia. Ci sono dei danni proprio alla società, al territorio, alla provincia di Modena, molto pesanti, quindi la stima sarà molto alta dei danni. Cioè, qui è una situazione, ripeto, forse per alcuni aspetti più grave di quella del terremoto, perché nel terremoto c'erano danni da distruzione, qui ci sono danni da allagamenti e da rimettere in piedi tutto un territorio profondamente rovinato da questa alluvione, quindi molto pesanti sono i danni, ma fra qualche giorno, appena sarà possibile anche raggiungere le zone ancora sott'acqua, si farà la conta veramente della situazione economica per i nuovi investimenti. Allora, nel frattempo tantissimi altri messaggi, mi piace per esempio in particolare questo, Mario da Venezia, la Serenissima Repubblica di Venezia, che sull'acqua non solo viveva, ma naturalmente ha intessuto la propria forza nei secoli, puniva con la morte chi danneggiava il complesso del patrimonio, acque, canali, fiumi, eccetera, eccetera. Altri tempi, sì, Mario, direi assolutamente altri tempi. Poi Roberto ci dice, a me risulta che AIPO, cioè l'ente incaricato della manutenzione degli argini del Po, non abbia risorse per fare manutenzione su diverse migliaia di chilometri di levate arginali ed è in questa condizione di progressiva tensione finanziaria da anni e anni. Poi c'è chi ci scrive invece, ne avevo visto uno da Mirandola, che fine ha fatto? tutto, eccolo qua. Sì, Milva, che ci scrive da Mirandola, quindi area del sisma, sono del sisma. Non mi risulta che il governo poi alla fine ci abbia agevolato. Io come terremotata contribuente, come me e tantissimi altri, abbiamo pagato regolarmente le maxi rate poi relative alle tasse dopo le sospensioni. Tanti hanno chiesto prestiti e mutui per poterle pagare, così non ci siamo e non ci salviamo. Allora la promessa che noi facciamo a Eugenia Bergamaschi è che continueremo a sentirci per monitorare con i nostri ascoltatori e per tutti voi, dandovi voce a questi enormi danni aggiuntivi. In gamba a tutti, continuate su Radio 24 come appuntamento domani.